Buonasera a tutte e a tutti, da parte di tutto lo staff della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta e della direttrice, che non potrà essere presente ma appunto ci teneva a porgervi i suoi saluti. Brevemente vi voglio ricordare quelle che saranno le nostre prossime iniziative. La prossima settimana è molto ricca e varia. Cominceremo il 19, sempre alle 17:30, con la presentazione del libro di Eleonora Goio, Infinitamente acqua. Il mercoledì 20 invece Mario Rusca ci parlerà di Ma una vita non basta. E la mattina, questa volta di giovedì 21 alle 10:30, partiremo con un nuovo progetto legato alla lettura ad alta voce. E verranno letti appunto qui nello spazio della biblioteca, in una sessione di gruppo, alcuni brani tratti dal romanzo Villa del Parco di Patrizia Rossi Garelli, che tra parentesi poi verrà anche presentato più avanti. Venerdì 22, infine, alle 16:30, presenteremo Il Monaco di Vetro di Andrea Bocconi. Sono tanti, abbiamo comunque le cartoline che potete portare via, riceverete la nostra newsletter, ci sono manifesti e speriamo anche dei brevissimi articoli sul giornale nei prossimi giorni, e quindi insomma rimarrete informati su quanto stiamo preparando. Questa sera siamo molto contenti di avere qui ospite Ariella Sponza, viaggiatrice, scrittrice, psicologa, psicoterapeuta e attualmente impegnata in un progetto molto importante di solidarietà sociale. E non solo io. San Niccolò a Puri. A questo progetto sono destinati appunto tutti i proventi ricavati del libro e di tutto quello che mi invento. Anche questa sera potete trovarne alcune copie a disposizione, per cui insomma si ha l'occasione di fare anche del bene, di contribuire a questo progetto di cui poi ci parlerà più diffusamente la signora Sponza. E le lascio la parola per scoprire insieme a lei l'India, le difficoltà o comunque le storie che sono legate a questo paese così vasto e ricco di sfaccettature. Grazie. Grazie. Prego. Io sono molto contenta di ringraziare tutte le persone dello staff della biblioteca, perché è stato un po' laborioso metterci d'accordo sulla data così. Ho avuto modo di essere in contatto con varie persone, vari di loro, è stato bello così avere questi contatti. Ringrazio tutti. C'è possibile di un microfono? Non parlo col microfono comunque, mi spiace, ma proprio non è nelle mie corde, ma fanno la registrazione, sì. E forse al limite ti possono mandare la registrazione, perché proprio col microfono non è così. L'India. Io sento di avere un legame molto profondo con l'India. Ci sono stata molte volte, adesso sono appena tornata dall'India, ero tutto gennaio, un po' di più, in India. E per la prima volta in cui ci sono andata, nel 2001, e tra l'altro la foto di copertina è di quel viaggio, proprio del mio primo viaggio in India, dalla prima volta che ci sono andata è stato un grande amore e subito un grande legame. Infatti quella volta la mia famiglia, sì vabbè, insomma i ragazzi, i miei due figli erano già grandi, quindi insomma non era un problema, erano già grandi, indipendenti, non era un problema, ma ai miei genitori, mia mamma soprattutto, mi ha detto no, non andare, non andare, perché tu non ritorni più. Infatti, in un certo senso è così, però in un certo senso è come è successo a te. Cioè sei andato in India prima di me, tanti anni prima, e sì, sei tornato materialmente, però, ecco, sì, il cuore è rimasto, tu ancora di più, perché appunto questi Swami Nirvanananda, per chi di voi non lo conosce, che poi, insomma, è coinvolto, è anzi l'iniziatore del progetto, insomma. E quindi, sai, anche per me è così, sono tornata, sì certo, ho ripreso la mia vita, la mia attività in Italia, a Trieste in modo particolare, però non soltanto il cuore, ma le mie radici sono in India. E ho scoperto che c'è anche una realtà obiettiva, proprio le mie radici sono in India. Nonostante sia stata molte volte in India, per lunghi periodi, girando tanto e così via, e sempre con grandi impressioni, con grande bellezza, con grande interesse, grandi progetti, realizzazione di progetti. Nonostante tutto questo, e nonostante il fatto che per me lo scrivere sia proprio un modo naturale di esprimermi, sia il mio modo di esprimermi, la scrittura, non avevo mai scritto nulla sull'India. Avevo scritto tante altre cose, anche pubblicato altre cose completamente diverse, ma sull'India non ho scritto nulla. E non era il momento, non era venuto il momento. Come dicevo un momento fa alla mia amica Cristiana, l'altro anno è venuto il momento. Si è presentato da sé e ho cominciato appunto a scrivere, scrivendo dei miei vari viaggi in India, ma né un diario, né un resoconto di viaggio, ma ecco, forse quello che definisce meglio il libro è quello che è scritto nel sottotitolo. Intanto il titolo, Mandala dell'Himalaya, ci torneremo, vi spiegherò un po', o vi racconto, ecco, meglio, vi racconterò un po' perché Mandala, perché dell'Himalaya e così via. Sottotitolo, viaggio nella cultura, nel mito, nella spiritualità dell'India. Ecco, forse questa è la chiave di lettura, perché effettivamente per me andare in India significa poter vivere quotidianamente e più liberamente di quanto mi sia possibile qui la mia spiritualità, la mia vita spirituale. E in una maniera che mi è consona, che mi viene bene e che mi risuona proprio anche culturalmente e tramite appunto quello che è il mito nell'India, che mito e spiritualità in India sono legati strettamente. E quindi oggi vorrei fare questo viaggio con voi, raccontandovi quel poco che si può, poco tempo, per presentarvi il libro, quello che ha significato per me, e il rapporto di questo libro con il progetto San Nicolò a Puri. Man mano vi racconterò le varie cose e vedremo come si collegano. Quello che vi dico adesso, come già Alessia ha introdotto prima, la vendita di questo libro, cioè i proventi che vengono da questo libro, sono tutti dritti vanno al progetto San Nicolò a Puri. Dopo ci mettiamo d'accordo, se vuoi li prendi tu e li mandi tu, se no li prendo io e li mando io, tanto la vanno e anche sappiamo dove e vediamo dove. Io ora adesso, in questo ultimo viaggio che ho fatto, sono stata anche a Puri e ho, per l'ennesima volta, e ho incontrato tutte le persone che si occupano dei bambini, delle ragazze, dei lebbrosi, e abbiamo visto un po' come vanno le cose, dove, insomma, le cose vanno, si vede dove i soldi vengono spesi, proprio si vede concretamente, e quindi siamo tranquilli da questo punto di vista. Ecco. Per fare insieme questo viaggio io ho pensato di lavorare in questa maniera. Io adesso vi introdurrò proprio nel libro con un percorso di lettura, cioè vi leggerò dei brevi stralci dal libro stesso, che uniti seguono un certo filo per dare un po' una strada e una presentazione del libro stesso. Alla fine di tutto questo avrò piacere, se avrete delle domande, a cui cercherò di rispondere per quanto mi è possibile, e dopo ancora chi lo vorrà potrà acquistare il libro e io avrò, in questo caso sarà il mio piacere, di fare a ciascuno che prende il libro una dedica personalizzata. Quindi, se volete, partiamo per fare insieme questo viaggio. Allora, io da qualche anno per leggere, da qualche anno per leggere devo mettere gli occhiali, quindi facciamolo, però solo per leggere, già qualcosa. Partiamo. C'è un profumo nell'aria, così delizioso ed elusivo, che posso goderne solo quando sono felice. L'arco dell'orizzonte ne è pervaso, come di un'essenza odorosa, capace di profumare e realizzare i desideri di tutto il mondo. Mandala dell'Himalaya. Perché mandala e cosa vuol dire mandala? Il termine sanscrito mandala, che noi occidentali intendiamo per lo più come diagramma mistico, strumento di meditazione, ha come primo significato quello di circolo, ruota, disco, orizzonte visibile. Ed eccolo qui il cerchio dell'orizzonte. Ecco il mandala dell'Himalaya. Mandala sì, ma vediamo quali radici ha questo mandala. Ha radici di loto il mio mandala dell'Himalaya. Il loto che si radica nel fango, cresce nell'acqua, si spalanca all'aria, schiude in bellezza i petali del suo fiore. Il loto che vive nei tre mondi, quello che simboleggia crescita e rigenerazione spirituale. Le radici di loto del mio mandala sono profonde e nutrienti. Sono state capaci di prosperare pur originandosi nel torbido limo della mia anima. Hanno dato vita alla pianta nelle sue acque turbinose, hanno permesso al fiore di sbocciare nella fragranza dell'aria limpida. Da allora ho viaggiato tanto in lungo e in largo per l'India, cercando di scorgere in ogni luogo, con meraviglia e gratitudine, i tasselli di quello che sarebbe stato il mio mandala, e l'ho fatto con spirito sincero, tanto che sono diventata pellegrina scalza per meglio calcare la foresta fiorita, l'audace traccia della tigre, il saggio percorso dell'elefante, il celeste sentiero per il tempio. E perché e come mandala? Sì, ma mandala dell'Himalaya. Non ero ancora in Himalaya allora, era 2001, quando piuttosto nel vociare dei paesetti e nello smog di cittadine pretenziose, salivo e mi arrampicavo in qualsiasi luogo elevato per ammirare sì l'architettura dei templi tanto diversi da quelli già frequentati in India, qui siamo in Nepal, ma anche con la segreta speranza di intravedere le preziose vette dei miei sogni. Finalmente un giorno vi riuscì, aggrappata alle sbarre di una finestrina sul retro, in un piccolo locale di ristoro dove tutto era semplice e pulito. Vidi una cima svettare rilucente dalla foschia e l'udì chiamarmi con la voce del vento. In breve tempo riuscì a individuare un trasporto. Così partimmo nel cuore della notte per andare ad ammirare il sorgere del sole sulla possente catena montuosa. Dopo un paio d'ore di salti e tonfi su strade sterrate, mi incamminai nello sfaldarsi delle tenebre per raggiungere una piccola altura. Il colore del cielo trascolorava dall'indaco dei fiori di Nem al grigio del fumo sacrificale, fino ad un punto di giallo, nascente al centro dell'orizzonte. La vista spaziava libera. Il vento freddo andava spolverando le ultime volute di nubi. L'atmosfera tutta era chiara, celeste. Ero sul tetto del mondo. Poco vestita per quell'altitudine, mi avviluppavo nell'amatissimo velo ciunni come fosse stato un caldo, prezioso scialle di Kashmir. Tremavo, ma non era il freddo ciò che sentivo. Ritta sul perno del panorama, mi confondevo nell'infinita bellezza circostante. Vibravo con l'energia del sole al suo sorgere. Annapurna, Daulagiri, Manaslu, Lhotse si illuminavano via via, mentre soltanto la vetta della più alta montagna riverberava di rosa, ricevendo per prima il dono del giorno. Era l'Everest, maestoso nell'altezza dei suoi 8.848 metri, ma io non lo sapevo, come non conoscevo in quel momento il nome di nessuna delle cime emergenti. L'ho preso in seguito, confrontando un cartellone turistico con lo schizzo a matita che avevo abbozzato sul momento. Questa è proprio la foto fatta quella volta, in quel punto, è proprio quello che vi ho descritto, è qui, proprio è originale. Quindi, quando ho preso contatto con l'editore, che vi ho detto, ho voluto scegliere un editore che avesse una visione della vita e dell'editoria che mi andasse bene. E così ho scoperto, come dicevo prima, che i piccoli editori non hanno distribuzione e quindi bene per un verso, male per un altro, però è così. E quando appunto ci siamo accordati e il libro è stato pubblicato, l'editore ha detto, ma vabbè, per la copertina metteremo una foto dell'Himalaya. E io ho pensato, una foto dell'Himalaya, cioè una cosa un po', come dire, un po' neutra, un po', insomma, così ho detto, senti, ho una foto, una vecchia foto, proprio dell'Himalaya, dal mio primo viaggio in India, e proprio c'è l'Himalaya, te la mando, vedi un po', gli è piaciuta, anche il suo grafico, con cui non eravamo d'accordo quasi per niente, è stato d'accordo, e quindi è diventata la copertina. E queste sono le vette che vi ho descritto ed il momento particolare che appunto ho vissuto. E questo nel mio primo viaggio in India. India e poi Nepal e poi di nuovo India, quella volta, nel 2001. Quella volta ancora non ci conoscevamo. Noi ci siamo conosciuti subito dopo il mio viaggio in India. Sì, nel 2001, però io sono andata in gennaio e ci siamo conosciuti più tardi. Ma comunque la nostra conoscenza risale a quella volta lì, e subito appunto mi hai parlato appunto del progetto di seguire i bambini e le brosi e tutte tutta la comunità nelle sue varie accezioni che vivevano a Puri e che erano stati presi sotto la tutela di padre Marian, un prete polacco che era stato mandato lì, perché sapete che li mandano un po' dove capita, e che lì aveva trovato una realtà molto dura, se vogliamo, e la prima cosa, almeno credo che fosse la prima cosa che aveva scoperta, questo è stato come è stata raccontata a me, è che c'era una grande presenza, una certa presenza, diciamo, di lebbrosi, che non soltanto malati a disagio con mille problemi, ma anche ovviamente emarginati, perché la lebbra è sempre stata considerata una malattia indegna, e in India in modo particolare i lebbrosi automaticamente diventano fuori casta e quindi già hanno i problemi loro e poi ancora così, quindi non c'era modo di avere un minimo di cure. E allora padre Marian ha incominciato a mettere su un piccolo dispensario, un piccolo ambulatorio in cui curare questi lebbrosi, e da lì sono nate poi via via le altre cose, perché i lebbrosi sì, hanno bisogno di cure, l'ambulatorio è diventato un ospedale che adesso ho visitato, e in India le cose sono diverse, cioè non è che c'è l'ospedale asettico come usiamo noi, si va in ospedale e sei avulso da tutto, levato dalla tua vita, ma le famiglie seguono i malati. E infatti lì a Puri è sorto subito il villaggio dei lebrosi, una serie di capanne che poi sono diventate casette, dove le famiglie dei lebrosi vivono con loro, che vengono curati e possono fare una vita pressoché normale. E i lebrosi hanno dei figli che sono perfettamente sani, la lebbra non si trasmette in questa maniera. E quindi questi bambini, anche loro, figli di lebrosi, quindi fuori casta, avevano bisogno di essere seguiti, di andare a scuola, e quindi il progetto si è esteso, perché abbiamo cominciato appunto a far costruire la scuola, che adesso è grande, bella, completa, piena di attività. Adesso che ero in gennaio mi hanno fatto feste incredibili, lo spettacolo che fanno sempre, le varie cose. Ho seguito gli studi dei bambini, tutte queste cose, quindi altro progetto. La prima volta che sono stata, ma forse non era la prima volta, ma insomma una delle prime volte in cui sono stata a Puri proprio, mi ricordo sempre, siamo andati, ti ricordi, all'ospedale e abbiamo cantato per loro. Ti ricordo, insomma, si fa spesso, sì, certo, ma quella volta poteva essere il 2003, non mi ricordo, insomma, quella volta abbiamo cantato per loro i kirtan, i canti devozionali. Questi erano felici, ma proprio una cosa veramente proprio felici, e alcuni di loro ci hanno raccontato le loro storie. Ovviamente c'era qualcuno che ci traduceva, perché io non parlo nessuna delle lingue dell'India, però c'era qualcuno che si traduceva. Una storia mi ha colpita in maniera incredibile. C'era un uomo che è venuto lì proprio a sentirci, contento di sentirci cantare, di stare con noi, e che riceveva le cure lì all'ospedale, e che ci ha raccontato che quando ha saputo che a Puri c'era qualcuno che curava i lebrosi e si prendeva cura di loro, dei lebrosi, è venuto e ha fatto 60 chilometri a piedi per arrivare a Puri, si è fatto 60 chilometri a piedi senza avere i piedi, perché entrambi i piedi erano ormai compromessi, e questo con due stampelle si è fatto 60 chilometri a piedi senza avere i piedi. E io l'ho visto e conosciuto lì con gli occhi che gli brillavano di gioia per la felicità. Questo mi ha veramente colpito moltissimo. Adesso sì, il villaggio dei lebrosi è tanto migliorato, è tanto così. E poi le cose sono andate avanti, e sempre però molto di recente io ho cominciato a interessarmi in modo particolare delle ragazze. Ho sentito che prima ne parlavi con qualcuno che per tutta una serie di motivi sono state messe sulla strada e quindi avevano una vita ben che triste, e che appunto abbiamo cominciato a, come possiamo dire, ricomprare, riscattare in qualche maniera, e creare un posto sicuro dove potessero stare, dove potessero finire gli studi almeno di base e imparare un mestiere, in modo che alla fine di questo percorso potessero essere indipendenti e avere una vita indipendente. Su questo, che già c'era, io ho avuto da quella volta proprio il piacere di raccogliere, appunto, con tutti i mezzi onesti che mi inventavo, di raccogliere quanto più potevo per costruire, per finanziare delle borse di studio per, tra quelle ragazze, quelle che avevano un desiderio particolare, un talento particolare, quelle che avrebbero voluto studiare per diventare, c'è chi è diventata programmatrice di computer, c'è chi è diventata cantante degli antichi raga indiani, c'è chi è diventata danzatrice di danza classica indiana, e tutte le volte che io ho incontrato queste ragazze è stata una cosa incredibile. Quest'anno anche l'incontro che ho avuto, cioè io lì a Pentacotta proprio, no, già prima alla Beatrix Cugno con i bambini, cioè l'incontro è stato, cioè avevo proprio le lacrime, ma non da avere gli occhi lucidi, proprio le lacrime che mi scendevano, no, veramente. E poi a Pentacotta proprio incontrando le ragazze e vedendo anche, vedendo gli occhi di queste ragazze, vedendole, cioè è stata una commozione tale che veramente che ho fatto una figura incredibile, perché tutto questo mi ha talmente stancata, fisicamente sì, ma soprattutto emotivamente, che quando siamo andati a vedere il museo di Padre Marian nel frattempo è morto, è quello che era la sua residenza, in parte è diventato un piccolo museo. Allora Padre Battista, che è quello che adesso segue tutto il progetto, mi ha lasciato un momentino lì per andare a preparare qualcosa, non lo so, c'era un lettuccio lì e io, stremata, mi sono appoggiata su questo letto e mi sono letteralmente addormentata. E dopo un po' viene Padre Battista, che tra l'altro ha aspettato, perché mi ha fatto anche le foto per prendermi in flagrante proprio, mi viene a scuotere proprio sorridendo, e poi vengo a sapere che questo era proprio il letto di Padre Mario, tenuto lì come museo, una figura di quelle proprio, però in un certo senso ha avuto la sua benedizione, mi ha, come dire, concesso di prendere. Comunque è stato veramente un incontro molto commovente. Ecco, questo era un po' per raccontarvi del progetto che continua, che vi dico dal penso 2003, non so, posso dire esattamente, Nirvanananda di più, no? Da tanto tempo, da quanto? È cominciato 1989. Vedi, tanto, ecco. E io che mi sono inserita dal 2003 in pratica, è il progetto che va avanti. Allora, il libro è diviso in tre parti. La prima parte, intitolata Il sorgere del sole, e prende proprio il titolo da questa visione, da questo grande, anche un altro rapporto molto forte per me, delle cose che per me sono molto importanti, è il rapporto con la natura. E quindi vedere queste cime, queste vette, poi la montagna, che amo moltissimo, quindi è stato molto forte. Quindi Il sorgere del sole, che parla un po' di questo. La seconda parte, intitolata Chardam Yatra. Cosa vuol dire Chardam Yatra? Cos'è? Perché? È perché è qui. E adesso ve lo racconto. Allora, andiamo a pagina 41. Eccolo qua. Sì, 41. Le lontane montagne dell'Himalaya hanno degli insediamenti, prevalentemente dedicati ai luoghi di culto, impervi da raggiungere. Eppure, anch'essi mi fanno vivere aria di casa. Vi andai nel modo che più mi appartiene, in pellegrinaggio. Non era per me una novità. Già nei miei diversi viaggi in India mi ero ritrovata, senza averlo minimamente cercato, eppure con grande partecipazione e riverenza, nelle vesti di pellegrina scalza. Eccomi allora, entusiasticamente imbarcata per un viaggio in terra himalayana, ai luoghi da cui scaturiscono i più sacri fiumi dell'India. Chardam Yatra, pellegrinaggio ai quattro luoghi santi. Yatra significa letteralmente dove, nel qual luogo, nella quale occasione. E mi fa riflettere sull'immanenza, sull'essere, sull'iket nunc. I quattro luoghi sacri sono quelli dei venerati santuari malayani di Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath. Fantasticavo da tempo sulla meraviglia, sulla magia dei grandi fiumi che nascono dal cuore dell'Himalaya. E ciò che mi aveva orientato decisamente nella scelta di questo viaggio era di poter andare là dove sgorgano Yamuna e Gange. Così, in una bella giornata di giugno, ci avviamo a piedi di buon mattino dal tempietto propiziatorio posto a 2400 metri di altitudine e subito vedo una fila continua di pellegrini snodarsi lungo il sentiero che ci condurrà ai 3185 metri nel santuario di Yamunotri. La gente sale per lo più a piedi, sia in comitive colorate e festanti, quanto con singoli individui assorti in meditazione. La strada procede in ripidi tornanti. Ogni tanto c'è un piccolissimo spiazzo dove sostano dei cavallini pronti ad essere noleggiati a chi sentisse di non reggere la fatica. Qualcuno però aveva sin dall'inizio preso la decisione di farla facile. Vedo delle rudimentali portantine di legno sorrette a spalla da quattro uomini ciascuna trasportare corpulente matrone e panciuti mercanti. Saliamo ancora e mi stupisco nel vedere lo sfoggio delle più fantasiose calzature, infradito da spiaggia, ciabatte sfondate, graziose pantofoline, sandali, vetuste scarpe da ginnastica. Sono molto contenta di aver scelto di indossare le mie fedele pedole da montagna. Ed ecco, emozionante, comparire in mezzo al verde di conifere e rododendri il santuario Yamunotri dalla caratteristica torre che evoca Lingam. A questo punto sono pronta per andare ad incontrare l'acquea dea Yamuna. Non mi aspetto di vederla nella sua personificazione, assisa sul dorso della tartaruga che le veicolo. Non spero di entrare nel suo yantra. Non potrò accompagnarla nei 1400 chilometri del suo scorrere accanto a Mathura, a Vrindavan, allo splendore del Taj Mahal. Non mi farò spaventare nel saperla sorella di Yama, dio della morte. Desidero vederla nascere, vedere il luogo da cui sgorgano vivaci dal ghiacciaio le sue acque. Così, contro il parere dei miei custodi, mi avvio lungo la traccia sdrucciolevole che si inerpica dietro il tempio. È un procedere in verticale, lento, faticoso e certo anche pericoloso. Sono felicissima di calzare i miei fini scarponi. Dopo una bella arrampicata arrivo fradicia, non alla sorgente a 4221 metri, ma da un punto sottostante da cui riesco a intravederla. Posso illudermi di essere stata bagnata e benedetta dalla cascata stessa con cui la dea Yamuna si insedia nel mondo. Ringrazio l'energia dell'universo per avermi concesso questa vivifica visione. Come vi dicevo prima, viaggio nella cultura, nel mito, nella spiritualità dell'India. La spiritualità la troviamo, spero di farvela trovare, ad ogni pagina, perché è quello veramente il punto focale. Vediamo un po' il mito, che per me è anche culturalmente, io da sempre mi sono interessata all'India anche in questa maniera, e viaggiando l'ho vissuto di più, e adesso vediamo un po' come questo ci... Proseguiamo, siamo sempre in Chardamiatra, proseguiamo. Eccoci addentrati nella vera e propria foresta himalayana. Non vi sono sentieri in questi luoghi. Mi sembra di vagare tra le navate di verdi cattedrali, colonne di cedri, pilastri di abete, slanciati obelischi vegetali. Non è però un avanzare cieco. Sono ben conscia di avere gli occhi per distinguere i differenti ciuffi di aghi che le conifere offrono, le orecchie per cogliere il loro fruscio, il cuore per goderne. Corro avanti, mi inoltro da sola sul tappeto tessuto da Sarasvati. Si intravedono a tratti dei monti non molto alti, ma molto vicini. Poi dei massi buttati là dal tempo, altre rocce raggruppate, ripari. Siamo nella foresta dei Pandava, un altipiano boschivo sui 2000 metri di altitudine. Tu. Scorgo d'un tratto un'enorme roccia tondeggiante con evidenti segni di intervento umano. Piccole aperture a mo' di finestrelle. Un ingresso basso intagliato nella pietra viva. Avranno abitato qui Draupadi e i 5 fratelli e suoi sposi? Entro molto emozionata. Nella morbida penombra intravedo alcune suppillettili e segni di un focolare. Qualche asceta verrà a rifugiarsi qui ogni tanto. Qualcuno arrivato all'ultima fase della propria ricerca spirituale troverà confortante aver avuto simili predecessori. Per me è troppo. Sono sopraffatta dei miei sentimenti. Esco. E poco oltre la soglia vedo brillare il cuore dorato di un minuscolo fiorellino. È una fragolina. Le stesse foglie tenere frastagliate, lo stesso numero e colore di petali, la stessa modestia nella collocazione. E la stessa fragolina arrivata spontaneamente nel mio giardino di casa. La stessa che cresce ai bordi dei sentieri di montagna. È una delle fragoline di Draupadi. Questa fragolina è Dvaitavana, quella della duplice fragranza. Sono al centro del mito e al tempo stesso sono a casa mia. Terza parte del libro, intitolata Ladakh. Il Ladakh, come forse voi sapete, viene chiamato il piccolo Tibet ed è Tibet a tutti gli effetti, da un punto di vista geografico, culturale, architettonico, di ambiente, di cultura. Tibet in tutto e per tutto, tranne per il fatto di essere parte politica dell'India. Ho voluto andare a Ladakh, vederlo, visitarlo, viaggiarci e vedere, affrontare, vivere l'Himalaya anche da questo versante, in questa modalità. Vabbè, poi vedremo cosa... 74. Si è sempre favoleggiato sul Kashmir, sulle sue calde, vaporose pashmine, capaci di sfilare all'interno di un anello, sui suoi giardini sbocciati da un arido suolo. A Srinagar è il tempio di Shiva quello che domina tutta la vallata. Shiva, signore del luogo da tempo immemorabile. Alzai gli occhi e vidi i monti, le vette, l'Himalaya. Forse le stesse cime che avevo ammirata stupefatta da Aulio da Badrinath. Realizzai di essere a poca distanza, in linea d'aria, da Rudraprayag, quella confluenza di due fiumi che mi aveva portato a riflettere sul corso delle 7 sorelle. Rievoco nella mia mente la visione incantatrice del volo sopra l'Himalaya. Un susseguirsi di monti formidabile, possente, una fantastica sfilata di vette, un continuo succedersi di cime, nevai e ghiacciai. Dall'alto, in alto del vertiginoso volo di migrazione delle oche selvatiche, vedo sfilare Rigial, la regina dei monti, Nun e Kun, Pinnacle Peak, poi quella che sembra un'enorme autostrada o una titanica pista da sci. Come per ognuna di quelle culminanti visioni, verrò ben più tardi a conoscenza dei loro nomi e saprò così di aver sorvolato tanti monti di oltre 7000 metri ed anche 70 chilometri del ghiacciaio Siachen. Ricordo la mia prima trasvolata sulle Alpi, quando avevo ammirata stupefatta monti e montagne e altri monti ancora, cime nevate, guglie torreggianti, e il tutto sembrava non avere mai fine e propormi delizie in eterno. Stavolta è così, e più ancora. L'Himalaya è una volta di più, 7 volte di più, 108 volte più profondo. Poi l'aereo picchia bruscamente con un'ampia virata, quasi una conversione a U, che lo porta sino alla vallata dove si annida la capitale della Ladakh, il paese degli alti valichi. La sensazione è quella di essere giunta ad una acerba Shangri-La. Alla mia sinistra la meraviglia appena trascorsa, sulla destra il bastione delle montagne nere del Karakorum, in mezzo l'aspra, selvaggia, desolante valle di Leh. Da Leh la strada sale subito, si inerpica in tornanti sterrati. Ben presto troviamo una spruzzata di neve sulla strada. Ma come? Siamo in giugno? Eppure. Il Kardong La, 5600 metri e più d'altitudine, è il passo con l'altitudine maggiore dove sia mai stata in vita mia. Fa un freddo incredibile. I fiocchi bianchi si infittiscono tanto da farci provare una vera e propria bufera di neve. La somma di tutti questi motivi rende difficile il respiro. Camminare risulta un'impresa. Eppure, chi, so, l'argia lo. L'energia primordiale combatte il male in favore del bene. Sono le scritte tradizionalmente poste sul punto più alto dei passi e dei valichi. Riscendiamo e pochi tornanti più sotto vediamo un gruppo di persone all'opera sui muretti di contenzione. Per la maggior parte sono donne che si stringono i loro scialli tinti, se li aggiustano sulla testa e sulle spalle, poi riprendono il lavoro sotto la neve che sta diradando. Vita dura per le donne in Ladakh. Dura specialmente per le ragazze dei piccoli villaggi montani, costrette da sempre a lasciare la precedenza su tutto ai parenti maschi, proprio su tutto. Dal cibo al calore degli indumenti, dal posto migliore vicino al fuoco alle rare possibilità di istruzione. Allora evviva! Pur dispiacendomi per le lavoratrici appena incontrate, mi rallegro per quelle che non si troveranno più in queste condizioni. Grazie alle estensioni in Ladakh del progetto San Nicolò Puri e di tutto il progetto in generale, abbiamo potuto contribuire personalmente alla realizzazione dell'ostello femminile a Leh. Qui studieranno e troveranno confortevole sistemazione le varie Yashoda, Zagmo e Tsevang, come è avvenuto già con le tante Promila, Barsha e Gayatri che già abitano nel mio cuore. Non è che mi sia inventata di dare il nome San Nicolò a Puri a questo progetto così. Intanto a Trieste San Nicolò è per noi una festa molto importante. È sempre stata la festa dei bambini. San Nicolò, da noi appunto, porta piccoli regali ai bambini. Il 6 dicembre, festa di San Nicolò, i bambini ricevono questi piccoli regali, proprio modesti. Ed è una tradizione che ho sempre seguita, ho sempre mandata avanti con i miei figli e ancora oggi, con tanta fatica, cerco di tener viva e di mandare a mia nipote, con grande difficoltà perché mia nipote purtroppo abita in Canada e anche in Canada dell'Ovest e quindi insomma non mi è molto facile, però San Nicolò deve esserci e facciamo ogni anno una magia per cui compare magicamente. Non è però soltanto per questo, ma Nicola, vescovo di Mira nel 400 circa d.C., ha avuto tutta una vita molto particolare e da sempre la fama di interessarsi dei poveri, dei bambini e delle ragazze in particolare. La leggenda vuole, questa è leggenda, però è molto accreditata, che Nicola, appunto vescovo di Mira, avesse saputo che un mercante che aveva tre figlie in età da marito era andato in rovina, in fallimento, e quindi non poteva procurare la dote alle sue figlie, che quindi sarebbero state messe sulla strada perché non potendosi sposare, non avendo la dote, per l'epoca, per la cultura locali, si sarebbero trovate sulla strada. Allora racconta la leggenda che nottetempo Nicola, che pure era vescovo di Mira, andasse sotto la casa del mercante e buttasse oltre il muro di cinta 3 sacchetti di monete che avrebbero costituito la dote per le ragazze. E quindi c'è anche questo collegamento diretto, ma non solo, perché ho illustri predecessori che parlano di Nicola e di San Nicolò, e uno di questi, adesso vi leggo e poi vediamo se vedete chi è. Esso parlava ancora della larghezza che fece Nicolò le pulcelle per condurre ad onor lor giovinezza. Chi ha scritto questi versi? Dante. Niente meno che Dante. Qui siamo nel Purgatorio, il canto 20° del Purgatorio, canti 31-33. E Ugo Capeto sta evocando, siccome siamo nel girone degli avari, sta evocando invece persone generose e altruiste. Quindi il progetto San Nicolò Puri ha anche un illustre, come dire, sponsor. Commentatore o sponsor, in un certo senso. Del progetto vi ho già parlato e quindi non insisto, soltanto per dirvi che appunto se avete piacere di comprare qualche copia del libro, tutti i proventi fino all'ultimo centesimo vanno per il progetto San Nicolò Puri. Quindi io adesso concludo questo percorso e poi passeremo alle domande, a tutto quello che vogliamo. Comunque mi fa piacere, come ho incominciato, di concludere. Ah sì, una cosa volevo dirvi. Durante questo percorso di lettura ci sono stati dei termini che magari uno dice: ma cosa vuol dire sta roba? C'è in fondo al libro, c'è un glossario dove in poche parole, termini un po' inusuali, un po' possono risultare un po' strani, qui li trovate, quelli citati del libro ovviamente, e potete un po' riferirvi. Ecco. No, era prima. Ecco qua. Ricerca della felicità, allora, per me stessa e per gli altri. Felicità duramente conquistata e ancor più duramente mantenuta. Felicità messa a dura prova nell'incontro con i più poveri tra i poveri, strattonata nella sua tranquillità, nel venire a conoscenza di terrificante storie di abusi, provata nel suo equilibrio dalla consapevolezza di soprusi sulle persone e sull'ambiente naturale. Eppure eccola lì. Felicità portata dal canto dei lebbrosi di Puri, che ci accolsero festanti nonostante le loro terribili piaghe. Felicità danzata dalle mie ragazze alla prospettiva di un futuro appagante e indipendente. Serena Letizia, espressa dai ladacchi, forse privati della loro eredità. Felicità che mi giunge dall'abbandono all'aroma seducente dell'albero più alto e più bello che si possa mai vedere. L'albero che inebria l'umanità. L'albero capace di profumare il mondo e di esaudire ogni desiderio. Karma e Dharma si intrecciano nella trama della vita. Ananda trova spazio nell'ordito del mio mandala dell'Himalaya. Inspiro finalmente l'effluvio elusivo di cui posso godere solo quando sono felice. Grazie. Certo, adesso tutte le domande. Siccome siamo in pochi, ho delle fotografie di Puri che mi hai mandato, posso farle girare? No. No che no, se qualcuno poi può vederle, senz'altro, sì, ma non adesso, perché prima facciamo delle domande che possono... E dopo se qualcuno è interessato, certo, grazie anzi della possibilità. Allora, se avete qualche domanda... Qualche posso quello che vi ha colpito, quello che vi ha incuriosito, quello che non avete capito, non sono stata capace di comunicarvelo, non lo so. Sono qua per... Io avrei una domanda. Certo. Se per favore potresti Certa, sì. Approfondire quello che all'inizio hai detto, che parlando di te, nei tuoi viaggi in India, hai detto che no, la spiritualità, come dire, che riuscivi a esprimere la, o a sentire la spiritualità di più in India che non qua. Si può un po' approfondire Sì, ecco, non più in India che non qua. Non lo so. Forse più facilmente, più semplicemente, più liberamente. Non più come intensità o altro, ma come... mi viene più facile, più spontaneo. Perché? Perché in India la spiritualità si vive quotidianamente, è proprio roba comunque un po' in tutto l'Oriente, se vogliamo. Io ho fatto un viaggio in cui non mi aspettavo assolutamente di trovare cose del genere a Bali, che è un posto bellissimo, però ovviamente siccome un'isola è molto piccola è diventato in breve meta turistica, quindi insomma c'è un grande bailame, eppure c'è spiritualità ad ogni angolo, normale, proprio una cosa così, ecco. E in India in modo anche più particolare, e quindi nel quotidiano, in maniera comune. E poi certo c'è anche una questione personale, per cui mi risuona più il modo con cui viene vissuta la spiritualità in India, e quindi con l'induismo, con i riti dell'induismo, mi risuona più di come può esserlo in altre maniere. Io ho un passato, ovviamente sono nata a Trieste, vivo a Trieste, quindi sono nata in un certo tipo di cultura, e quindi chiaramente sono nata dentro alla cultura cristiana cattolica, per forza di cose. Per tutta la prima parte della mia vita, da autodidatta, perché in famiglia i miei non erano assolutamente religiosi, persone meravigliose, di una moralità, di una generosità, ma non religiose, nel senso proprio di religione. Quindi non ho avuto un'educazione religiosa, ma da autodidatta me la sono fatta io, e quindi sono avanzata nel cristianesimo, vivendo proprio da bambina, proprio da piccola, la mia spiritualità in questa maniera. Finché a un certo punto sono uscita dalla chiesa, non dalla fede ma dalla chiesa, e ho cominciato, girando il mondo, a vedere come la spiritualità si poteva esprimere in varie maniere, e altre mi sono risuonate di più. Spero di averti risposto. Sì. Prego. Se c'è qualcosa che volete... L'impatto con le differenze sociali, con la povertà e la ricchezza. Io ho provato due volte ad andare in India e non mi è riuscita fino adesso, spero di andare prossimamente in India. E quindi mi sono passata una volta in India per andare in Bhutan, quindi c'è una differenza enorme. Beh, Bhutan non sono mai stata. Non ti posso dire, da quel che si legge, il Bhutan è molto, come dire, ha le sue regole ben precise, si tiene distaccato dal mondo in un certo senso e così via. Cosa ti posso dire? Beh, intanto andare in India è sempre molto faticoso, non so se sei d'accordo, Giorgio, non so se sei d'accordo, andare in India è sempre molto faticoso. Io lo trovo meraviglioso, altrimenti non sarei tornata mille volte come ho fatto e come spero di fare ancora, ma è molto faticoso. Ma se tu sei, come dire, vai con la mente aperta, con il cuore aperto, in India trovi, tra la gente proprio, parliamo della gente così. Io ho girato moltissimo da sola con i mezzi locali, quindi ho incontrato tanta gente in maniera così proprio spontanea, e sei accolto. Se tu sei sincero, sei accolto. Se ti atteggi, no, perché ho visto con altre persone, ma proprio c'è una differenza proprio nell'accoglienza. Differenza tra poveri e ricchi. Poveri ne ho incontrati tantissimi, di varie gradazioni di povertà. Ricchi quasi nessuno, quindi non ti posso dire le differenze, perché non ho avuto modo di conoscere persone ricche in India. Poveri, sì, tantissimi, ripeto, varie gradazioni di povertà. Molti dicono, parlando dicono, ah, in India c'è tanta miseria. No, in India non c'è miseria. In India c'è tanta povertà e c'è tanta dignità. Quindi anche nella povertà più nuda, più dura, c'è una grande dignità, per cui non è miseria. È povertà sì, anche molto dura, per cui appunto se si può cercare di fare qualcosa, io appunto ho scelto questo settore perché se tu ti focalizzi in un posto puoi fare dei progetti e curare i progetti e far sì che vadano avanti, no? Cioè non fai beneficenza dando lì No. qualcosa, ma cerchi di contribuire a costruire Avvicina qualcosa, a ecco, distanza. sì. Ricchi non Sì. ne ho conosciuti, quindi non ti posso dire. No, perché almeno dai dati che si sentono ci sono persone che hanno anche culturalmente sono molto avanti e poi c'è questa miseria. Per questo appunto le scuole che abbiamo fatto costruire a Puri sono delle scuole di buon livello, perché insegnano l'inglese, oltre che tutte le materie ovviamente, oltre che rispettare la cultura dei bambini, la loro cultura proprio, insegnano l'inglese dalle prime classi, in modo che alla fine di tutto il corso delle classi i bambini sanno l'inglese bene e se vogliono possono andare anche all'università. Quindi hanno delle opportunità non indifferenti, no? Si cerca di fare le cose proprio costruendole in un certo modo per dare dei vantaggi quanto più possiamo, insomma, no? Ma il popolo che viaggia nei pullman, il popolo dei mercati, parla, i mercanti, dei mercati, parlano tutti l'inglese. No, neanche per idea, quasi nessuno. L'inglese lo parlano appunto i ricchi, i chiamiamoli borghesi. Sì, ho incontrato dei, non forse ricchi, ma insomma dei borghesi, ne ho incontrati tanti, ma li ho incontrati così un po' di sfuggita. Anche tutti molto gentili, tante volte che avevo bisogno, così c'era sempre qualcuno appunto che sapeva l'inglese e che quindi vuol dire che aveva avuto un'educazione o perché era ricco o perché è incappato in qualcuno di questi progetti e ha potuto studiarla così, ma Ma il popolo no, no. assolutamente, perché già poter andare a scuola è già un privilegio. C'è la scuola dell'obbligo, sì, però nella scuola dell'obbligo si insegnano proprio quelle quattro, legge, scrivere, far de conto, ma proprio poco niente. Molto spesso le scuole sono molto distanti da dove abitano i bambini devono aiutare, devono lavorare, quindi già andare a scuola Molto, è sì. già tanto. E poi appunto le scuole dell'obbligo non danno molto. Le scuole invece che hanno un buon insegnamento Sono e che hanno private. altre cose sono private e sono costose e quindi la gente del popolo, la gente proprio così, non se le può permettere. E quindi un altro buon motivo per finanziare e costruire queste scuole che diano una buona educazione a chi? I bambini di Puri, che noi appunto cerchiamo di aiutare a crescere, ad avere una buona educazione, sono o figli di lebbrosi o i figli di pescatori a Puri, che sono proprio, cioè allora, Puri nell'Orissa, lo stato dell'Orissa, sul Golfo del Bengala, ed è il secondo dal basso. Il secondo stato per povertà di tutta l'India. Quindi, insomma, ecco, la pesca non è una riserva, non è una grande risorsa perché il mare è sempre molto burrascoso e quando non è burrascoso non c'è il pesce, non, insomma, sono molto poveri. Quindi figli di lebbrosi sani e figli di pescatori sani anch'essi, però nella scuola, oltre all'educazione, si butta l'occhio anche sulla salute dei bambini, no? Quindi, insomma, cerchiamo di dare anche questo, insomma, per quel che si può, insomma, ecco. Per quello ci rimbocchiamo le maniche e tiriamo su tutto quel che possiamo con tutti i mezzi, ripeto, onesti, che possiamo. Prego. Mi è venuta in mente un'altra domanda, che Sì. tipo di, nell'educazione, che tipo di devozione seguono? Una unica o tipo di religione, un tipo di, a cosa sono devoti? Allora, la maggior Come? parte, beh, dipende, se parliamo dell'India in generale, dipende No, dai no, vari stati. pensa, Parli a sì, Puri. parlo Allora, di... Puri, nell'Orissa, nel Golfo del Bengala, Per la maggior parte sono induisti, induisti. Proprio la gran parte. Induisti, mm-hmm. Proprio la gran parte. C'è qualcuno che si è convertito ed è cristiano cattolico, mm-hmm. Ma pochi, mm-hmm. Non è una grande. A Puri non ho mai incontrato, ah sì, adesso c'è, altro discorso, ma questo solo ve lo cito, non ne parliamo perché sarebbe un lunghissimo discorso. In questo mio ultimo viaggio, proprio adesso, ho incontrato una realtà che sta prendendo sempre più piede e che mi ha lasciato un po' interdetta, è che la realtà degli Hare Krishna. Allora, gli Hare Krishna si stanno diffondendo sempre più e... perché ve l'ho detto? Qual era? Da cosa sono partita? Della religione. A cosa sono? Sì, ecco. E quindi ci sono anche, e anche a Puri proprio, c'è il tempio delle Hare Krishna e ci sono dei seguaci. Ma non andiamo tanto avanti su questo discorso, che sarebbe molto lungo e molto complesso. Ma gli Hare Krishna di Prabhupada o gli Hare Krishna di ISKCON? ISKCON è la cosa generale. Aspetta, com'è l'acronimo? No, scusami, ho sbagliato. O quelli che seguono Sadhguru? No. ISKCON è proprio la cosa generale degli Hare Krishna. Dovrebbero essere anch'io. Tutti in ISKCON. Ne ho visti tanti anch'io. Sì. Sì, anch'io. Infatti, questo viaggio sono andata a farlo con gli Hare Krishna perché mi è piaciuto tanto di loro la gioia nella devozione, no? Nella bhakti, questa gioia, questa libertà di vivere la devozione con il canto, con la danza. E poi invece, insomma, ho incontrato, però ho detto non vorrei addentrarmi in questo, uh-huh. E poi invece ho incontrato la loro filosofia, il loro modo di vedere le cose, e non sono per niente d'accordo, lo trovo, sai, fuorviante, poi trovo che sia una cultura maschilista, quindi no, ecco, però insomma... Uh-huh. Una parte di bello c'era. No, la domanda mi era venuta sì. Perché all'inizio ho detto che c'è quel don o padre o un Marian. Padre Marian, sì, che era un prete cattolico. Certo, sì. Ho pensato infatti cosa no, che... l'organizzazione di tutto questo, perché noi ci andiamo ogni tanto, ma mm-hmm. ci deve essere qualcuno che organizza tutto, mm-hmm. è tenuta da i preti cattolici, mm-hmm. che hanno messo su un ashram lì, mm-hmm. e dalle suore sempre cattoliche di mm-hmm. No, è rimasto solo un ordine, no? Perché le celle della carità non ci sono più, no? No, o le Sister Adoras non ci sono più, no, uno dei due gruppi insomma della carità, non ci sono. Ecco, sì, e quindi sono cattolici gli organizzatori, però, ed ero adesso in gennaio, quindi l'ho visto, sono molto rispettosi, cioè non è che oddio un po' nel loro lo faranno, perché insomma inevitabile che un po' ci sia, ma non è che fanno i missionari. Ecco, cioè rispettano la cultura, infatti i bambini sono quasi tutti induisti e per esempio adesso, dopo che sono tornata e che ci siamo tenuti in contatto, mi hanno mandato le foto che festeggiavano a scuola, proprio dentro la scuola con tutti i bambini, festeggiavano, era una festa di Sarasvati, che è una delle grandi idee dell'India, no? E quindi lo festeggiavano dentro a scuola con tutti i rituali induisti del caso, insomma, quindi rispettano la loro cultura, ecco, sì. In Ladakh invece sono buddisti e quindi anche lì, dove c'è questo ostello che abbiamo contribuito a far costruire tutto quanto, sono buddisti e la loro cultura è quella buddista e vivono in questa maniera, insomma, ecco, ma sì, ecco. Queste varie religioni vanno d'accordo fra loro? No. Allora sarebbe un grande discorso che Nirvanananda può farvi molto meglio di me. No. Sì, no, quello che soprattutto contribuisce a rendere le cose estremamente difficili è la politica. Cos'è? La politica. La politica e i giochi di potere che si mettono in mezzo anche alla religione, non soltanto alla religione, ma al vissuto della religione, e anche si mettono in mezzo anche quando mi ricordo anni fa, tu ancora non venivi a Puri, credo, o forse già sì, non mi ricordo. Ti ricordi che c'era, non mi ricordo più il nome, quella grande anima appunto che era a Puri che aveva l'ashram a Puri, induista, e che era proprio un uomo di pace, grande amico di Nirvanananda, e che una volta ha promosso una specie di, come dire, di incontro interreligioso con i capi delle varie religioni che gli Apuri avevano così. E appunto Nirvanananda è stata anche così gentile, così coccolo da invitarmi, quindi io sono andata, ho partecipato e ho sentito la vera voglia di lavorare insieme, di condividere da parte di questi vari capi di fazioni o di religioni diverse. E non so se l'anno dopo o qualche anno dopo, questo, non mi ricordo il nome, proprio l'ho rimosso proprio per questa esperienza drammatica che mi ha talmente scosso, questo capo della fazione induista, uomo di pace, ma vi dico, l'ho conosciuto personalmente, proprio uomo di pace veramente, è stato nel suo ashram, è stato aggredito e ucciso a bastonate, nel suo corpo buttato nel laghetto lustrale. Quindi questo non è stato fatto dai suoi amici, colleghi, rivali delle fazioni altre, ma è stato un discorso politico. Chiudiamo anche qua, perché cioè non è che siano rose e fiori, neanche cercare di fare qualcosa, neanche cioè andare, già che bello, qua vi ho parlato di felicità, ci sono dolori, lotte dovunque, insomma, questa è la vita. La casa di Madre Teresa di Calcutta è ancora una realtà? Si è allargata? Dunque, io sono andata, la prima volta sono andata proprio nel 2001, poi sono tornata negli anni, ma penso l'ultima volta nel 2014, quindi non so più di quello, molto attiva, sempre con, anzi c'è un passo qui nel libro che vi parla del mio incontro a Kathmandu con appunto le sorelle della carità di Madre Teresa di Calcutta, che ho appena incontrate, e questo mi ha portato invece ad andare al... Aspetta, forse anche lo trovo facilmente e vi leggo il passo, proprio per avere un po'... Sì, perché proprio credo sia facilmente rintracciabile. Soltanto qualcuno mi dice che ora è, per piacere, che non vorrei sforare. Sono le 6:40. Ah, va bene, allora adesso passeremo a questo. Oh, dunque, ecco, mistero, trasformazione, Shiva. L'aspetto del divino entratomi nel cuore con la forza della metamorfosi mi si palesava ora con il suo volto terrifico. Tendevo sempre a perdermi a Kathmandu, a vagare fino a non saper più dove potesse ritrovarmi. E sempre mi si rivelava un lato sconosciuto e tremendo da affrontare. Fu in questo modo che mi scoprì a inseguire lo svolazzare delle vesti bianco-azzurre delle suore in carità di Madre Teresa, intente a porgere aiuto e soprattutto conforto ad anime palpitanti imprigionate in corpi miserandi. Così scoprì la scalinata che conduceva in alto, oltre le volute delle nuvole, fino alle spirali di fumo dei campi funerari. Mi sembrava che tutto fosse costellato di piaghe purulente, non solo i volti e le membra delle brosi. Pativo per il lezzo delle infezioni, anelavo all'aria fresca e pulita che solo il vento avrebbe potuto offrirmi. Tuttavia mi fermai, prese ad avanzare lentamente, assimilando ogni elemento che sensi e sensibilità mi proponevano, e fu così che iniziò a germogliare il seme di quello che sarebbe diventato il mio progetto San Nicolò Puri, proprio in questa occasione. Sì. Allora vi ringrazio ancora, e chi ha piacere di prendere il libro, Silvia si occupa di raccogliere. Il libro costa 15 euro. Sì, 15 euro, per essere esatti 14,90, e io il resto giusto, ho tutti i decini, ho tutto, quindi ecco, e quindi se qualcuno vuole avrò piacere di farvi la dedica, ecco. Grazie, come fa? Casca tutto. Grazie, a presto. Grazie. Buon prossimo viaggio. Grazie, grazie. Un augurio molto gradito. Gradito e gradevole. Io sì che lo chiedo. Grazie. Certo, certo. Molto. Grazie, grazie. Sono contenta se sono riuscita a fare passare qualcosa, perché come sentite qualcosa che veramente mi entusiasma, no? Ecco, allora aspetta, sì, magari le diamo.